Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo la storia di una donna vivente, una meravigliosa signora che a 93 anni continua a esercitare la sua professione, pittrice e scrittrice. Ma dobbiamo andare per ordine e partire da un quadro. Il quadro si chiama La Joie de Vivre. È un quadro di Pablo Picasso, meraviglioso, colorato, pieno d'amore per la vita, come recita il suo titolo. Picasso lo dipinge nell'ottobre del 1946, quando ha già 65 anni, ma per lui è come se iniziasse una nuova giovinezza. Si è lasciato alle spalle le vicende terribili che lo hanno profondamente segnato, la guerra civile spagnola con il tragico bombardamento di Guernica nel 1937, bombardamento dal quale scaturì, per quanto riguarda Picasso, uno dei quadri più famosi della sua carriera. La morte della madre nel 39, la seconda guerra mondiale, la fine della sua relazione con Dora Maar. La sua nuova amante, che è anche una compagna, una musa, una modella, è incinta del terzo genito Claude. E si è da poco trasferito in Provenza, Picasso, abbagliato dal sole del Mediterraneo, dove il conservatore del museo di Antibes, Romuald Dore de la Saussure, o della Sushé, chissà come si dice, gli mette a disposizione una sala del castello Grimaldi, che diventa così il suo atelier. Picasso è felice, la Joie de Vivre riflette questo suo stato di grazia. È il quadro più colorato di Antibes, la sabbia è d'oro. La luminosità del cielo e la calma del mare sono resi mediante le molteplici tonalità del blu. Il personaggio centrale è una donna, rappresentata come un fiore e con le fattezze della sua compagna. La donna danza in compagnia di due capretti, un balletto accompagnato da un centauro che suona il flauto e a destra da un fauno che suona il diavolo, il flauto a due canne. Da questa donna fiore e icona di bellezza visionaria, dalla danza che coinvolge tutti, non solo gli animali ma perfino il fiore a sinistra, che pare muoversi al suono degli strumenti, dai colori che sembrano accesi di un'energia vitale, si sprigiona un'impressione di felicità e di contentezza, di appagamento. È un Eden, un Olimpo, è la gioia di vivere di Pablo Picasso. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down his street and girls could not resist his stare. Pablo Picasso never got called an asshole. Girls would turn the color of an avocado. Street in his El Dorado. Pablo Picasso never got called an asshole out in New York. Ma chi è la musa ispiratrice al centro del dipinto? La donna che riesce a suggerire sentimenti così celestiali ed appaganti a un uomo tormentato e dalle relazioni sentimentali burrascose come Picasso? Si tratta della sua compagna, la giovanissima pittrice Françoise Gillot, una donna la cui vita incredibile merita veramente di essere raccontata. Françoise Gillot nasce a Neuilly-sur-Seine, a pochi chilometri da Parigi, il 26 novembre del 1921. La sua è una famiglia benestante, il padre è un uomo d'affari, la madre è una pittrice, un acquarellista. I due genitori la pensano in maniera molto differente circa l'educazione scolastica da impartire alla figlia. Il padre vorrebbe che facesse l'avvocato, la madre che diventasse pittrice come lei, perché sente in quella figlia un grande talento artistico. E in effetti la ragazza fin da piccolissima dipinge e dimostra di essere molto molto portata per l'arte. Le insistenze del padre la convincono a iscriversi lo stesso all'università, ma dopo pochi anni Françoise segue il suo destino e diviene pittrice, esponendo per la prima volta a Parigi, in una Parigi travagliata dalla guerra, nel 1943. E quello stesso anno in primavera, Françoise, allora 21enne, incontra in un ristorante Pablo Picasso, che di anni ne ha 40 più di lei. Beh, e allora è un incontro fatale. Da un lato la giovanissima pittrice alle prime armi, che aspetta solo di trovare chi creda in lei e le apra le porte dell'arte che tanto ama. E dall'altro il grande pittore spagnolo, un'icona vivente dell'arte contemporanea che vede in lei tutta la bellezza della gioventù e dell'ammirazione. Picasso è lusingato. In un incontro ravvicinato nel film Surviving Picasso, diretto nel 1996 da James Ivory e interpretato dal grande Anthony Hopkins nel ruolo di Picasso. Venga al mio studio qualche volta. Lo sa, io ho dipinto il suo volto prima ancora che lei nascesse. Nessuno la ferma mai per strada e le chiede: sei un Picasso? No, mai? No, never? Beh, insomma, un modo di corteggiare molto interessante. Se poi il corteggiatore è Pablo Picasso, il successo direi che è quasi assicurato. Siamo nel 43. Picasso, come dicevamo, è un mito vivente. Frequenta abitualmente i quartieri di Montmartre, Montparnasse, pranza con Apollinaire, il poeta, con la scrittrice Gertrude Stein, è amico di Max Jacobi, il critico, e viene fotografato con Amedeo Modigliani. In una parola, è una personalità, il capo di stato di uno stato che non si vede, quello dell'arte. Nel 1936 è stato nominato direttore del Museo del Prado di Madrid e ha già dipinto nel 1937 il suo capolavoro. Ne parlavamo prima, l'incredibile e imponente quadro Guernica, dedicato al bombardamento dell'omonima cittadina basca durante la tragica guerra civile spagnola, che strazia la sua patria e che lo colpisce profondamente. Ce lo ricorda il critico d'arte Achille Bonito Oliva. Picasso nel 1937 dipinge Guernica. Guernica rappresenta il bello della diretta della pittura. È un'opera realizzata da Picasso sotto lo shock provocato dal bombardamento di questo piccolo paese, un pueblo basco, durante la guerra civile spagnola. Il primo bombardamento a tappeto fatto dagli Stukas tedeschi, un esperimento a freddo, centinaia di morte. E Picasso, che stava realizzando e dipingendo la solita corrida che gli piaceva molto, ha cancellato e realizzato Guernica per comunicare attraverso l'arte, attraverso quello che lui chiamava l'arte puntata sul mondo, una tragedia che riguardava tutta l'umanità. Ma qui non è già più tempo di tragedie, perché dell'incontro che stiamo descrivendo tra il grande pittore e la giovane Françoise Gillot è l'uomo Picasso che soprattutto ci interessa. Un uomo che ha già avuto mille donne. È tuttora sposato con Olga Shoklova, ballerina russa della troupe di Sergei Diaghilev, della quale ha avuto il suo primogenito Paolo. Picasso l'ha tradita, gettandola nella disperazione più nera che la condurrà alla malattia e alla morte. L'ha tradita con Marie-Thérèse Walter, dalla quale ha avuto la secondogenita Maya. E anche Marie-Thérèse sognerà per anni di sposare Picasso e, delusa, si toglierà la vita impiccandosi. Nel ristorante in cui incontra Françoise Gillot, il pittore è giunto in compagnia della sua attuale amante, la fotografa Dora Maar, con la quale ha una relazione da 9 anni e che lui ha sopraffatto con la sua forte personalità fino a farle abbandonare una promettente carriera nel mondo della fotografia. Modella del quadro Guernica, definita tragica incarnazione stessa del dolore, Dora Maar riprende in mano la macchina fotografica per immortalare l'evoluzione dell'imponente opera, realizzando una serie di scatti che la renderanno famosa. Ma non è felice, perché sa che Picasso non le è fedele ed è stanco di lei, e quando lo vede parlare con Françoise Gillot comprende all'istante che lo ha perso per sempre. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso, diceva qualcuno, e che quella giovane pittrice dalla bellezza inconsueta ha stregato il mito Picasso. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Why? He flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando oggi la storia di una donna forte, una donna che ha saputo veramente dare un colpo d'ala alla propria esistenza e salvare la sua anima, perché stiamo raccontando anche la storia di una donna che sta cercando di resistere al tornado che le sta per piombare sulla testa. Il tornado si chiama Pablo Picasso, lei si chiama Françoise Gillot. Siamo arrivati a quando la giovane pittrice francese, che ha solo 21 anni, incontra Pablo Picasso in un ristorante parigino. Siamo nel 46. Lui ha 40 anni più di lei, però ha dalla sua parte il fascino non solo dell'uomo maturo, ma della sua grandiosa personalità artistica. Lei è colpita immediatamente e tra i due è ovviamente colpo di fulmine. La fotografa Dora Maar, che è stata compagna del pittore da 9 anni, cade in una profonda depressione, acuita da una diagnosi di sterilità che la porta in breve tempo al ricovero in una clinica psichiatrica, dove viene sottoposta a numerosi elettroshock. È una nuova vittima che va a allungare l'elenco delle ex compagne di Pablo Picasso che perdono la ragione, se non addirittura la vita, quando la loro relazione finisce. Beh, non c'è niente di strano se pensate a quello che diceva lui stesso. Ogni volta che cambio donna dovrei bruciare la precedente, così me ne sbarazzerei. Beh, è un'affermazione forte che pochi uomini possono permettersi di fare. Picasso era uno di questi. È ossessionato dal tempo che passa ed è convinto che una compagna nuova, possibilmente giovane, possa restituirgli la sua stessa giovinezza. E quindi l'idea che una delle sue ex donne possa sopravvivergli lo fa impazzire. Per questo ha un inconscio desiderio di distruggere la loro personalità, di annientarle, e ahimè il destino gli dà una mano, perché alcune di queste si annientano dal punto di vista letterale. Per questo è attirato tremendamente da Françoise Gillot, non solamente perché è bellissima, è di una bellezza picassiana, come la definisce lui con la modestia che lo contraddistingue, ma anche perché è molto giovane e vuole diventare pittrice. Nulla sembra di più plasmabile, ma questo è quello che crede Picasso, che questa volta avrà pane per i suoi denti. Françoise, dal canto suo, non si preoccupa di certo delle donne che l'hanno preceduta. Intanto ha 21 anni, si sente bella, lo è, ed è lusingata dall'interesse del maestro, del grande Picasso. Ne è invaghita, naturalmente, su tutti i fronti, come donna, come aspirante pittrice, e con l'energia della sua giovane età si getta nella passione per quell'uomo dal fascino incredibile. Non teme di poter fare la fine che hanno fatto tutte le altre. Lei stessa si definisce una donna audace. La paura non mi ha mai sfiorata. Avevo 13 anni quando salii in piedi su un balcone alto e qualcuno gridò che avrei dovuto saltare. Così saltai e mi ruppi un piede. Però saltai. Se vengo stuzzicata reagisco sempre. I miei genitori volevano un maschio e invece sono arrivata io. Così ho dovuto sviluppare il corpo e la mente come quelli di un ragazzo. Mi incitarono a non avere mai paura. In seguito se ne pentirono perché non avevo più paura nemmeno di loro. Con la stessa audacia, forse un po' incosciente, con la quale uno si getta da un balcone a 13 anni, Françoise Gillot si tuffa in quella relazione inconsueta con il maestro. Lui è un uomo di 60 anni, potrebbe essere suo nonno, e peraltro è ancora sposato con Olga Choklova, la danzatrice russa che ha perso la ragione a causa sua, e ha in giro una sfilza di amanti pronte a contenderselo con le unghie. Ma lei è una donna audace. Fin da subito ha la sensazione che questa relazione non avrà un lieto fine, ma sono all'inizio del loro amore e lei non ci vuole pensare. E poi Picasso è un uomo incredibile, ha una vitalità fisica e intellettuale talmente travolgente da tenere il passo con una ragazza di 20 anni. Lui ne è invaghito e le chiede di andare a vivere assieme. E anche qui scopriamo un altro aspetto del carattere forte di Françoise Gillot. Qualsiasi altra ragazza nelle sue condizioni accetterebbe subito senza esitare. Ma lei, non sappiamo se con strategia o forse perché capisce che sta rischiando molto, gli risponde che ci vuole pensare su. e non ci pensa neanche poco, perché aspetta ben 3 anni. Forse, anche se è molto giovane, sente qualcosa, avverte che quell'uomo che le dimostra tante attenzioni ha un male di vivere congenito e che può farle molto male. Molti critici d'arte sostengono che i suoi stessi dipinti dimostrino una patologia ben definita: l'emicrania cronica invalidante, volti tagliati in verticale e particolari sproporzionati sono il frutto delle visioni spezzate dei malati di aura visiva, una patologia di cui Picasso soffre, così come anche De Chirico. Su questo punto non tutti sono d'accordo, ma è chiaro che il confine tra genio e follia è molto labile. E inoltre Picasso porta dentro di sé una profonda consapevolezza del male, consapevolezza che esprime nella sua arte. L'animo avvelenato lo rende perfido, sadico, particolarmente con quelli che ama e che vivono con lui. Infatti non lascia un bellissimo ricordo Picasso in quelli che gli sono sopravvissuti. François questo lo sente. Si innamora di lui di getto, ma resiste fino al 1946 prima di accettare la convivenza. E anche se passeranno molti anni insieme e metteranno al mondo 2 figli, quello è l'inesorabile inizio della fine. Pablo voleva assolutamente che mi trasferissi da lui e dopo 3 anni cedetti. Vivere con lui significò subirne completamente il fascino, il che è insopportabile con una persona così autorevole. Françoise Gillot racconta con sofferenza la sua travagliata relazione con Picasso. Vivere con un genio non è facile. Vivere con un mito contemporaneo, osannato, idolatrato da tutti, lo è ancor meno. Confrontarsi con lui è addirittura impossibile. Sarà per questo che Françoise mette da parte le sue velleità di pittrice, perché non si sente all'altezza. A chi le domanda come mai non dipinga più, risponde che in casa non c'è abbastanza spazio per le tele di tutti e due, che le tele sono grandi e non ci stanno. Ma il motivo è ben altro, non sono le tele che non ci stanno, è l'ego di Picasso che è debordante. E poi lei sta aspettando un figlio, Claude, che nascerà nel 1947. I due si sono trasferiti ad Antibes, dove il maestro dipinge la joie de vivre, che, come dicevamo, fa parte di un ciclo di pitture più rilassate, felici, come rilassato e felice appare Picasso, che ha un nuovo amore e sta per diventare padre, sperando che questo gli interessasse, per la 3ª volta. Io sono normale, ma diverso dagli altri. Ho un'anima speciale che nessuno vedrà. Non so cos'è la tenerezza, una carezza non l'ho avuta mai, ed ogni sentimento muore dentro, e così come voi nel profondo di me, non conosco amore. Il rapporto tra Françoise e Pablo è contraddittorio al massimo, la felicità sembra reale. I due, oltre a Claude, mettono al mondo anche una figlia, Paloma, che nasce nel 1949 e che diventerà una disegnatrice di moda e imprenditrice di gioielli di successo. Ma dall'altro lato la loro relazione è una sofferenza continua, che cresce sempre più. E avviene in una maniera contorta, tipica del modo di porsi del pittore di fronte a qualsiasi argomento della vita. Picasso, ad esempio, si dichiara ateo, eppure obbliga Françoise a giurarsi amore eterno, a giurargli amore eterno in un angolo buio di una chiesa. Ma quando lei, dopo aver giurato, chiede a lui di fare altrettanto, lui si rifiuta. Un continuo dare e avere, mettere e togliere, far sentire importante per poi alla prima occasione demolire. Questo fa Picasso con le sue donne, tutte. Ci riesce, ci è sempre riuscito, lasciandosi alle spalle una lunga serie di poverette che perdono il senno e addirittura la vita. Eppure questa volta con Françoise Gillot avviene qualcosa di differente. È vero, lei è giovane, ha abbandonato le sue speranze di diventare una pittrice, il sogno di quando era ragazzina, ha perfino litigato con i suoi genitori che l'hanno diseredata. Ha deciso di dedicare la sua vita a Picasso, gli ha dato 2 figli, ma non si fa domare. Lui la definisce la donna che dice no, perché si contrappone a tutti coloro che gli gravitano attorno, che non azzardano mai un'obiezione. Al maestro danno tutti ragione, ma lei qualche no lo dice, soprattutto quando discutono di filosofia. È un terreno dove non sono mai stati d'accordo. Françoise ha studiato filosofia all'università, mentre Pablo è un autodidatta. Ma la frequentazione con i poeti, gli autori, i critici d'arte che lo circondano sempre lo portano a assorbire le loro idee senza doverle studiare. È qui la differenza. Lei ne è insieme infastidita ed affascinata. Pablo era in grado di creare un intero edificio di idee con solo un pizzico di Hegel, ma non voleva che si sapesse. Non voleva essere visto come un pensatore, ma come un animale selvaggio, una forza della natura. Ma lui non era affatto così. Possedeva un'incredibile complessità intellettuale. Falco e il Gabbiano. E oggi anch'io, Enrico Ruggeri, sto cadendo tra le braccia di questa storia incredibile. Questa storia con la vita affascinante di una donna che ha saputo volare in alto. È caduta ma si è rialzata e con grande forza è riuscita a scappare da chi l'avrebbe probabilmente distrutta. Questa storia d'amore tra Picasso e Françoise Gillot, la nostra protagonista di oggi, pittrice francese. La loro è una storia di amore, di sopraffazione, di genialità, lacrime, dedizione, fuga. Françoise è un'aspirante pittrice e conosce il grande Pablo Picasso a Parigi quando lei ha appena 21 anni e lui 61. Lui è un mito vivente, genio dell'arte pittorica contemporanea, uno dei rari casi di pittore riconosciuto universalmente da vivo. L'amore scoppia tra i due, ma su piani completamente diversi. Lei lo ama, lo ammira, lo venera, desidera entrare nelle pieghe più nascoste della sua arte, mentre lui trae linfa vitale e ispirazione dalla sua bellezza e giovinezza, ma, come ha fatto con tutte le donne che ha avuto, nutre nei suoi confronti un sentimento di sopraffazione. È un fatto normale per Picasso. Le sue relazioni sono sempre così, è un intricato miscuglio d'amore e di demolizione. Le donne che ha avuto fino a quel momento hanno fatto tutte una brutta fine a causa sua. Sono morte o sono impazzite. Ma Françoise ha dalla sua l'entusiasmo della giovinezza e non si cura della fama poco rassicurante del suo amante. Ci fa due figli, sopporta pazientemente la sua gelosia e possessività che arrivano a un passo dalla violenza. Mi obbligava a portare un lungo vestito nero, quasi in burca. Si potrebbe dire che era un talebano. Provate a pensare all'Inquisizione. Gli spagnoli sono inclini al sadismo in forme estreme e in Pablo era una parte importantissima della sua personalità. Una volta, scherzando, gli dissi che era il diavolo. Lui mi lanciò uno sguardo perfido e disse: «E tu sei un angelo uscito dalla brace e io ti marchierò». Avvicinò una sigaretta alla mia guancia, ma io non gli detti soddisfazione. Non battei ciglio. Allora lui disse: «No, potrei volerti guardare ancora in futuro». Vedete, anche il grande Picasso comincia a vacillare. Il vestito nero con cui copre la sua giovane amante la dice lunga. I 40 anni cominciano a diventare un macigno anche per la leggenda che si porta dietro il grande pittore. Ma questo tormento interiore che affligge la coppia non si manifesta all'esterno. La pace della quotidianità ad Antibes con i due bambini si contrappone a un rapporto quasi malato che i due vivono nel privato. Sembrano una coppia normale, al di là del fatto che lui sia il grande Picasso. Una coppia che partecipa attivamente alla vita della comunità del paese, dove ovviamente il maestro è amatissimo. Esplode il conflitto interiore che accomuna molte delle donne che si sono accompagnate ai grandi uomini. L'uomo dei sogni si rivela essere molto diverso da come lo si immagina. Le contingenze della vita sviliscono anche le leggende viventi. Non perde occasione per minare le sue sicurezze, Picasso, togliere sostegno alla sua personalità, crearle delle paure che generino dipendenza da lui, perché è lui che ha paura. e inoltre la tradisce, ma lei lo ama, è anche il padre dei suoi due figli, Claude e Paloma, dei quali peraltro lui si disinteressa parecchio, non è certo il padre che nessuno vorrebbe avere, Picasso, ma sempre è padre. E poi è Pablo Picasso, il grande, il sublime, l'inarrivabile maestro, l'uomo dalle mille risorse, depresso e volubile, ma anche intelligentissimo e abile. Françoise pensa spesso che le sarebbe impossibile vivere senza le lunghe e intense conversazioni notturne con il suo amato, senza gioire con lui quando è al settimo cielo per aver dipinto un quadro che gli piace. Ma lentamente, giorno dopo giorno, matura dentro di sé la consapevolezza di quanto accaduto alle donne che l'hanno preceduta. Si specchia in loro, nella loro fragilità, e si vede percorrere con orrore la loro stessa china che termina nella perdizione. Man got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. Smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Se non fosse per i bambini, Françoise avrebbe già lasciato la casa di Pablo. Ne va della sua salute mentale e fisica. Lui, con la sensibilità acuta dell'artista, avverte l'allontanamento progressivo della donna e tenta di tutto per legarla a sé. Fino a quando le chiede un altro figlio, lui, che padre, non si sente affatto. Una richiesta che è un sottile inganno, perché sembrerebbe un atto d'amore, ma non è altro che la via più facile per renderla di nuovo sottomessa. Ma questa volta lei non ci casca, rifiuta categoricamente. Fare un altro figlio vorrebbe dire legarsi a quell'uomo per almeno altri 10 anni e annunciare in anticipo il suo suicidio. A questo rifiuto Picasso reagisce alla maniera sua, realizzando la scultura di una donna incinta e poi, davanti a Françoise, le taglia i piedi. Ormai la relazione è ai ferri corti, i tradimenti sono all'ordine del giorno, una tensione insostenibile che aiuta Françoise a decidere. Dopo 10 anni di relazione intensissima ai due figli, lascia Picasso. Non credeva che l'avrei fatto, perché mi disse: nessuno lascia un uomo come me. E io gli risposi: aspetta e vedrai. Ma naturalmente, dopo che l'abbi lasciato, era furioso e mi perseguitò per il resto della sua vita. Alla fine si isolò dal mondo perché, come dire, lo volle lui stesso. Si distrusse da solo. Perché lui era molto distruttivo nei confronti degli altri, ma alla fine fu anche autodistruttivo. Ciò che non era mai accaduto accade. Una donna lascia Picasso, lui che le sue donne le ha sempre manipolate, sottomesse e distrutte. Chiaramente Picasso non può accettare un affronto del genere. Forse il grande maestro, tutto preso da se stesso, non si era accorto che accanto a sé aveva avuto per oltre 10 anni una donna diversa dalle altre, una donna più forte, con una personalità. Quello che lo infastidisce di più e che lo getta per alcuni mesi nella depressione è l'affronto subito, non tanto la perdita della sua compagna. Lui non è uno qualsiasi, non lo si può trattare così. Ma dopo pochi mesi, quando avverte la mancanza di una donna, non di Françoise, ma di una donna qualsiasi, la sostituisce con Jacqueline Roche, conosciuta alla sua fornace, che arriverà addirittura a sposare. Ma anche lei, del tutto succube del marito e annientata in quella relazione perversa, si suiciderà alla morte di Picasso. Quello di Françoise Gillot è un vero e proprio primato. È l'unica donna che ha avuto una relazione con Picasso che ne è uscita lasciandolo lui di sua volontà e sana nella mente e nel corpo. È una dimostrazione di grande forza, anche perché quando Françoise Gillot lascia Picasso, ricordiamoci che ha solo 32 anni e prosegue nella sua vita in maniera egregia. 2 anni dopo sposa l'artista Luc Simon e i due hanno una figlia, Aurore. Dopo aver divorziato da Simon, conosce il medico e scienziato statunitense Jonas Salk, realizzatore del primo vaccino contro la poliomielite. Lo sposa nel 1970 e resta con lui fino alla morte di lui, avvenuta nel 1995. Françoise passa attraverso la traumatica esperienza della relazione con Pablo Picasso, riuscendo a sopravvivere. Ritorna alla vita, si sposa, fa un'altra figlia, si risposa con un altro uomo famoso. In più, Françoise ricomincia a dipingere. La sua passione giovanile per l'arte, il suo desiderio di diventare una pittrice, che è stato soffocato negli anni in cui la personalità dominante di Picasso le impediva di esprimersi, trova nuovamente la via per emergere. Picasso non ci sta. Minaccia di boicottare i proprietari delle gallerie parigine che esporranno le sue opere. Ma non solo. Le persone del suo entourage fanno in modo che i giornali pubblichino solo le recensioni negative sui dipinti della pittrice. La vendetta del genio è terribile. La vita di Françoise diventa molto dura in Francia e prende una decisione inevitabile, la migliore della sua vita. Se ne va negli Stati Uniti, dove poi conosce Jonas Salk e qui diventa una pittrice affermata. Dopo 11 anni dalla fine della relazione con il pittore spagnolo, nel 1964 Françoise scrive il libro Vita con Picasso. È un incredibile successo editoriale che vende 1 milione di copie e viene tradotto in 12 lingue. Lei lo definisce un pretesto per raccontare la mia vita, ma naturalmente Picasso non lo prende affatto bene e fa causa a lei e alla sua casa editrice per proibirne la pubblicazione. La coda di paglia esplode. Françoise riesce a dimostrare che tutto ciò che ha scritto corrisponde alla verità e i giudici le danno ragione. È un boomerang per Picasso, che comunque non si arrende, ricorre in appello ma perde ancora, perché la storia viene definita di pubblico interesse. E allora il grande maestro è costretto a fare una telefonata che gli costerà fatica a fare. Congratulazioni Françoise, hai vinto. E sai che a me piacciono i vincitori. Picasso sa perdere e lei è una vincitrice. Si può definire così Françoise Gillot, una vincitrice soprattutto su se stessa. È una donna che ha veramente saputo dare un colpo d'ala alla propria esistenza. Oggi Françoise Gillot ha 93 anni e continua a dipingere e esporre i suoi quadri a New York e in diverse gallerie di tutto il mondo. E la personalità di Françoise Gillot è proprio veramente molto forte. Ce l'ha raccontato anche l'editore e gallerista Stefano Cortina. Sì, Françoise Gillot è stata sicuramente influenzata da Picasso, la stessa sua vicenda lo definisce. Lei si era innamorata dell'uomo, ma naturalmente si è innamorata anche del personaggio, perché noi sappiamo che nel 43, nei 40, ma anche negli anni immediatamente precedenti, quando lei era proprio una ragazzina diciottenne che voleva fare l'artista spinta dalla madre, era attratta come tanti giovani da Picasso. Ma dire che lei abbia copiato Picasso o sia stata influenzata così pesantemente è un errore. D'altronde Picasso era un genio, è stato il più grande artista, perché è normale che i grandi artisti vengano non seguiti, ma diano ispirazione ai giovani. Io ho conosciuto Paloma Picasso e ho avuto l'occasione, diciamo, di conoscerla, perché come madre non posso dire come fosse. Sicuramente quegli anni e la frequentazione con un uomo come Picasso qualche segno, secondo me, ha lasciato anche in Françoise Gillot, nel senso che i rapporti affettivi, la negazione totale di Picasso come padre era notoria, e la reazione di questa donna, che ha dovuto comunque lottare, è stata veramente straordinaria. L'unica donna, è vero, che sia sopravvissuta a Picasso, ha lasciato probabilmente il segno anche nei suoi figli. Ma mentre in Picasso come essere umano non posso scusarlo, con Françoise Gillot invece sicuramente di più, anche perché lei, quando se n'è andata, ha abbandonato, ha portato i suoi figli, eccetera. Però chiaramente questo tipo di relazioni con queste forze, con queste personalità così forti, lasciano il segno, e lasciano il segno anche hanno lasciato un segno anche in Paloma. La spiegazione a queste belle parole ce la dà proprio Françoise Gillot, quando conclude dicendo che è molto meglio vivere momenti tragici con persone interessanti che non vivere una vita meravigliosa con una persona mediocre. L'arma per reagire al mondo per Françoise Gillot è stata la pittura, ed è l'arma che l'ha salvata dall'incontro con la personalità terribilmente debordante del grande Pablo Picasso. Ci sono storie di chi ce l'ha fatta, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute e risalite. Noi cerchiamo di raccontarle perché ognuno di noi nella sua vita può volare in alto, dare quel colpo d'ala e fare cose che possono lasciare un segno. Abbiamo bisogno anche di voi e delle storie che voi ci segnalerete. Se volete mandarci commenti o segnalarci altre vite, fatelo. Scriveteci al falcoilgabbiano@radio24.it oppure sul nostro profilo Facebook, oppure cercatemi che mi trovate. Ciao, a domani. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.